Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Compratevi la Bari, guardate quanti siamo. Compratevi la Bari, qui tutti noi l'amiamo. E prima al Bari c'era bella gente, un ricottaro come presidente, che ha fatto debiti con tutti i fornitori, con il fisco e con i giocatori. Noi non vogliamo i soliti affaristi, preferiremmo solo gente onesta, che siamo stanchi di essere presi per il culo un po' da tutti, anche da Papa Resta. Qui non c'è stata mai tanta euforia. Merita questa città, questi tifosi, quindi meritano tutti. Il progetto è quello che mi avevi dato in quella famosa intervista che ha scatenato di pure. Però adesso è quello il progetto. Il progetto è... Grande Bari, no? Scusatemi. Una battuta. La battuta è solo che si sta facendo questo progetto importante per una città importante, una tifoseria che sta dimostrando in Serie B numeri incredibili, una squadra eccellente, preparata in maniera eccellente, allenata da professionisti seri, preparati, il direttore sportivo che ha lavorato benissimo, tutti molto bravi, quindi complimenti a tutti e continuate così, sicuramente adesso dobbiamo continuare e procedere su questa stessa linea. Io, come ho promesso ieri, le promesse le mantengo. Ieri era sulla porta, mi diceva: arrivano i russi al Bari. Giuseppe Cruciani, ciao. Ciao, ciao, ciao. Finalmente, devo fare la corte. Te devo fare la corte. Ma ti devo fare la corte. Manco fossi. Perché tutto questo interesse verso il Bari? Il Bari. A me interessa molto il Bari. Sì, 35.000 persone l'altro giorno. Pardo voleva comprarlo. Sai che ha lanciato una sottoscrizione. No, sono contento per l'amico Paparesta che ho conosciuto. Mm-hmm. Sono contento per lui perché, insomma, voleva fortemente prendere Bari, speriamo vada tutto bene, però sai, nei confronti dei Matarrese, ho sentito la canzone prima, no? C'è la solita ricottare come presidente, sì, ma la solita follia dei tifosi, no? Quando il Bari andava bene in Serie A erano osannati, nonostante i bilanci anche allora non è che fossero proprio Sant'Antonio, no? sanissimi. Sì, poi adesso quando il Bari ha cominciato ad andare male sono diventati dei mostri assoluti. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Bene. Molto bene. Senti, ma dimmi una cosa, Cruciani viene dal tuo stesso barbiere? Ma Cruciani ha un rapporto con i capelli forse addirittura peggiore del mio. Molto bene. No, ma noi siamo un gruppo di persone... siamo scapigliati per anni il modello di riferimento è stato Porrà. La lunghezza dei capelli di Porrà dava proprio il senso di quello che era il limite fino al quale potevi spingerti in grande serenità in televisione. E anzi l'abbraccio forte, come direbbe Parenzo. E no, Cruciani, insomma, diciamo, ha un approccio così, diciamo, minimal coi capelli, no? Non mi sembra. Beh, minimal, che ti faccia non ti fai lo chatouche, eh? Ho un rapporto molto complicato. Fosse studiato andrebbe meglio, ma in realtà è tutto lasciato. Ho sentito l'altra notte la replica della Zanzara, ho saputo che tu hai andato finalmente Parenzo a fare delle visite approfondite, questo mi fa molto piacere. È inutile adesso dire qua in questo contesto un po' meno, come dire, un po' meno hard. Questo è un programma hard. Comunque neocatecumenale, è un programma, diciamo, più tradizionale, ecco. Questo sì, sì, sì. Abbiamo uno share per i tassisti di Roma clamorosi, sia in questa macchina, questa è già da 9, ma anche addirittura si è fermato un vicino che stava sentendo che tacchi era quell'altro? Senza sigla, famoso taxi senza sigla, non c'è numero. Vabbè. 4 minuti non c'è numero. Ieri sera ero con È abusivo, è Uber. No, ma io voglio tornare. Ruber, Fatemi tornare al Bari, perché insomma il motivo per cui si è chiusa la vicenda è. Ragazzi, ma alla fine, basta con sto Bari. No, ma che basta? Adesso mi devi dire se erano pressioni russi o no, perché ieri hai tirato. Ma non lo so, si parlava di un appoggio di denari. Non credo che Paparesta abbia 5 milioni di euro suoi, glielo auguro, ma non credo che siano tutti i soldi suoi. No, cioè... ero ieri sera col signor Paparesta, e che parlerà bene ufficialmente, da quello che ho capito, insomma, è molto felice. Il progetto è un progetto di alto livello, chiaramente non è che è lui che ci mette i soldi, lui ci metterà credo una parte, insomma, faccia parte del board, credo sia una figura assolutamente rappresentativa per quella che è la città di Bari. L'ho visto stracarico, stramotivato, poi il resto anche lo abbiamo fatto un po' di brainstorming su, insomma, mi sembra che abbia idee abbastanza chiare anche dal punto di vista del marketing, sul merchandising, su altre cose. Mi sembra sul pezzo, ecco, questa è la cosa, sì. Secondo me, l'unica cosa che si può dire, cioè, poi sarà il tempo, ovviamente, insomma. Ce n'è un altro che è sul pezzo. Il vero motivo per cui la vicenda si è chiusa è stata una minaccia esplicita, questa. Ragazzi, ma questo è un annuncio importante. Ma volete lasciar fallire il Bari? Oh, io adoro le Baris. Adoro le donne di Bari, le pugliesi. Mi piace mangiare lì. Che cazzo volete fare? Lo volete far fallire? Guardate che io arrivo, voi mi conoscete, e se lo fate fallire, io arrivo e vi inculo, ok? Questa è la ragione. Questa è da Zanzara, questa abbiamo, abbiamo subito Rocco risposto Siffredi. all'accusa di essere un programma blando di fascia. Una volta non c'erano i beep, no, non si usano più, in radio pare tutto. No, Rocco Siffredi, non è che si può censurare così come ti pare. L'amico e collega, Siffredi, sì, certo. Vabbè, 800 24 00 24, dopo traffico, parlate voi, parla Giuseppe Cruciani, parla Pierluigi Pardo, ha parlato Mazzarri, altro allenatore a chilometri zero in scadenza, perché pare che la nuova moda sia questa. Sta parlando Immobile, a proposito di frasi educate, negro di merda è stata quella rivolta a Balotelli questa mattina da uno a Firenze durante gli allenamenti della nazionale. Balotelli si è girato, ma ha reagito in maniera anche composta, cioè non ha reagito di fatto, si è girato verso Marchisio e ha detto: solo a Firenze e a Roma succedono queste cose. C'è una stupidaggine colossale, succedono Bene. Ovunque, non a Firenze e Roma, non solo a Firenze. Lui ha detto così, ne parliamo dopo il traffico. Anche nella sua Brescia. Tutti convocati. Per la precisione, solamente a Roma e Firenze sono così scemi, ha detto Balotelli. Ma dai, su, ma ragazzi, su. Ma di che stiamo parlando? Cioè, questo è un cretino che è andato lì, uh-huh. Ha detto negro di M, mi sembra, sì. Un imbecille, cui non va fatto niente, va semplicemente preso, gli vanno dati due schiaffoni e basta. Non è che questo può andare a finire in galera, ma o no, interrogato no, per aver detto negro di M a Balotelli. Gli vanno dati due schiaffoni così rapidi, vai a casa con un calcio nel sedere magari, e basta. Però quello che dice Balotelli, solo qui o a Roma, ma è una stupidaggine. I cretini, in particolare isolati, ma non solo, anche in gruppo, ci sono ovunque, anche nella sua Brescia, anche a Torino, sì. A Milano, può capitare dappertutto. A Verona, dove diceva questo, sì, pubblico mi faceva, sì, più schifo. No, ma poi anche perché queste cose poi scatenano delle reazioni spropositate, perché poi parlano tutti e parla Abete, sono comportamenti inaccettabili da parte di singole persone che non dovrebbero esserci, ma dobbiamo mettere in conto, e tutte queste cose qui, no, Pierluigi? Sì, no, ma sarebbe bello, da questo punto di vista sarebbe quasi incoraggiante poter limitare geograficamente in una città piuttosto che in un'altra il fenomeno. Non è così, ovviamente, non è che poi ci potranno essere delle tifoserie che ce l'hanno particolarmente con Balotelli, ma questo è completamente un altro discorso. L'insulto razzista è sbagliato per un motivo prima di tutto logico, perché insultare un giocatore che ti sta antipatico dandogli appunto del negro di M significa non insultare lui, ma insultarlo per un motivo che riguarda milioni di persone del mondo e per il quale nessuno merita di essere insultato, perché altrimenti, allora, se insultiamo i ciccioni, insultate me, se insultate quelli con i capelli che stanno un giorno sì, uno no, insultate Cruciani, se insultate i pelati, insultate gente. Cioè, entriamo, scusa, nessuno che offende i tre, penso. Ecco. Però voglio dire, è una cosa talmente una cazzata che si commenta da sola. Quindi ci sta che uno possa stare antipatico con Balotelli, Marchisio, Totti, ci sta, ma c'è l'insulto ad personam. Poi che durante l'allenamento della nazionale, quello che è un attaccante che sarà fondamentale per il nostro futuro venga insultato, è un ulteriore altro atto di demenza, per cui abbiamo perso 4 minuti a parlare di un deficiente. Sì. Lo dico con grande, no, ma è quello che ho detto anch'io. Dopodiché, la risposta di Balotelli solo qui o solo a Firenze e a Roma non ha la stessa deficienza. Ma sarà determinante Balotelli, come dice Pardo, per noi ai mondiali? Beh, che è chiaro, a meno che non esploda Immobile e faccia 6 gol come Rossi a Spagna 82, magari sono gol che servono, a meno che non esploda qualcun altro, è evidente che in questo momento siamo affidati un po' al fatto che Balotelli magari imbrocca un mese, non c'è dubbio. Sto leggendo anche i messaggi, il Bari è un argomento che tira, si è fatta molta ironia anche sui giornali di oggi, su... Ma io sono contento, io sto dicendo Bari riguarda il Bari, riguarda i baresi, ma una grande piazza, 35.000 spettatori l'altro giorno in Serie B, un grande risultato, spero che il Bari vada in Serie A, non me ne vogliono le altre squadre, non credo, sarà molto complicato, dopodiché è il Bari. Un momento democristiano, Cruciani, spero che il Bari vada in Serie A. Ma no, spero per Gianluca. È un tifoso del Modena. No, ma infatti... Non Giovanardi da Modena. No, ma infatti... No, non sono molto democristiano, spero per Gianluca, non conosco nessuno delle altre squadre, conosco Paparesta, mi sta simpatico, penso che sia una brava persona. Hai visto tutta l'ironia che è stata fatta oggi sui giornali, su quella che? Dello stanzino, ma tutte puttanate, dai, su, però, ma sono tutte puttanate, no? Sì, com'è che hanno fatto la battuta, adesso prima veniva rinchiuso negli spogliatoi, adesso invece è lui a rinchiudere i giocatori negli spogliatoi, una cosa del genere. Questa non l'ho letta, nel compenso ho letto Paparesta 5 miliardi di reali gli ha dati Moggi, questo da un ascoltatore, tutte queste. No, senti, voglio parlare invece di un altro argomento che mi interessa molto. Mi interessa parlare di Cruciani su questa storia degli allenatori al minimo salariale o quasi. Ha parlato Mazzarri questa mattina. La battuta bella è questa: un arbitro compra una squadra e non viceversa. Il primo caso in cui un arbitro compra la squadra e non viceversa. Questa, chi l'ha scritta? Non mi ricordo, su web. Ci sono su tante web. Cose. Un arbitro compra la squadra. Senti, non Mazzarri stamattina. Guardate, io parlo con i numeri, io vi faccio la domanda a voi, quando si centra un obiettivo come fa a essere considerato un anno non positivo? Se si guarda da dove siamo partiti, cosa abbiamo fatto, tutte le eventuali variabili che non sto più a dire, ma le sapete benissimo più di me, che poteva essere anche valutata in un modo diverso quest'annata, al di là della classifica, come vi ho detto durante tutto il percorso. Ma per assurdo, quando poi ritorni in Europa è da tutti riconosciuto, era da tutti riconosciuto un obiettivo e non era assolutamente scontato, non posso capire come si fa a valutare, come si possa valutare un anno così negativo, al negativo. Mazzarri dunque resta, dopo Conte, altro allenatore, segno della crisi, si rispettano perfino i contratti degli allenatori. Meno male. Come meno male? No, cioè, meno tu, male. Tu dai una squadra, l'Inter, la Juventus, a un allenatore a termine? Ma no, ma meno male nel senso che ha ragione Mazzarri da questo punto di vista, magari non c'erano alternative, non le aveva nemmeno lui, non le ha trovate Tohir, non lo so, però non è sbagliato il ragionamento che fa, cioè, per tutto quello che è successo, Mazzarri è stato scelto da Moratti. Non so se Moratti già aveva in testa di cedere la squadra o no. A un certo punto c'è stato un cambio di proprietà importante, perché praticamente le redini dell'Inter non sono più nelle mani della famiglia Moratti, ma sono nelle mani indonesiane. Di solito c'è anche un cambio di allenatore in questi casi, o comunque si arriva a un cambio di allenatore. Evidentemente per una serie di motivi si è deciso di andare avanti al termine di una stagione in cui oggettivamente l'Inter non poteva fare di meglio. Cioè, l'Inter è arrivata alla fine quinta, credo che per l'organico, per come è andata la stagione, per una serie di motivi, non credo l'Inter sia superiore alla Fiorentina. La Fiorentina è già a metà di un progetto iniziato con Montella e per due anni è arrivata quarta, cioè stiamo parlando di una squadra che è già impostata da qualche anno. Credo che non sia superiore alla Fiorentina, l'Inter è al posto giusto, ha centrato l'obiettivo che era quello di qualificarsi e di tornare in Europa, andare in Champions era praticamente impossibile. Non c'è nulla da rimproverare a Mazzari. Poi evidentemente il feeling c'è ancora, altrimenti Toira non credo che si faccia problemi a tirare. Tu dici? Cacciare. Sei sicuro? Io non sono sicuro di questo. Un po' di feeling ci deve essere per forza, altrimenti non credo che gli indonesiani si fanno molti problemi a cacciare Mazzari e prendere un altro. Ma sai, è un momento in cui anche i denari della rescissione del contratto, del divorzio non consensuale vengono considerati, anche perché sai, ieri Pardo ha incrociato Mentana, che esprime il suo parere, però è quello credo di molti tifosi dell'Inter su Mazzarri. Non lo so se vorrei Mazzarri, perché ovviamente non è scoccata una scintilla d'amore clamorosa, no? Non è Mourinho, no? Non ha fatto nulla per arruffianarsi il popolo, è quasi meno che gli arbitri. Cioè, è così, da un lato è bello vedere che uno che non ci vuole mai stare, no? Che vorrebbe sempre qualcosa di più. Del resto, visto quello che è stato messo in campo, non è difficile volere qualcosa di più. Quindi la questione è che poi siamo alle prese con l'elaborazione del lutto della fine della Sado, no? Della fine dei grandi campioni argentini che ci hanno consegnato il triplete. Questo era Enrico Mentana ieri. Pierluigi, invece, io non la penso come Giuseppe, ho detto il mio pensiero. Secondo me anche quei denari che legano un allenatore a una società, anche se non c'è la massima fiducia, non c'è più amore, come nel caso secondo me della Juventus, tra la Juventus e Conte, nel caso di Mazzarri, insomma Toir penso avrebbe voluto magari qualcosa di diverso. Sì, beh, però sono d'accordo con Giuseppe, secondo me almeno un minimo sindacale di feeling ci deve essere, altrimenti non avrebbe senso. Insomma, l'allenatore è troppo importante, eh? Per tanti anni abbiamo detto che gli allenatori bravi sono quelli che non fanno danni, cioè, qualcuno diceva questa cosa, e per me è una boiata clamorosa. Cioè, gli allenatori, salutiamo intanto Ciatanove, che gli allenatori sono importanti, sono importantissimi e possono fare la differenza, come ha dimostrato Conte, come ha dimostrato Rudy Garcia quest'anno. Quindi francamente sarebbe proprio triste se l'Inter tenesse Mazzarri solo per risparmiare dei soldi. Secondo me la stagione dell'Inter non è stata né clamorosa né fallimentare. Mazzarri è un allenatore che ha una storia di un certo tipo alle spalle, che lascia pensare che possa far meglio, ed è una fiducia magari senza un entusiasmo clamoroso, ma è una fiducia, insomma. Sì, sì, ma poi basta con questa storia di Mourinho, ha veramente rotto le scatole questa cosa qua. Ma la vera elaborazione del lutto è quella, cioè ogni volta bisogna ripetere la stessa cosa. Potrebbe succedere, scusami, alla Juve se mai dovesse partire Conte, perché c'è un livello tale di diffusione, di osmosi, di immedesimazione, di tutto, che poi è alimentata anche da Mourinho stesso, anche dopo, no? Cioè, beh, non è una roba, sì, li converrà, ma insomma alimentata dopo, il feeling con l'Inter, non dimenticherò, le mie uniche squadre sono state Chelsea e Inter, e la stessa cosa potrebbe accadere sicuramente con Conte, anzi di più, perché poi Conte è stato anche un giocatore della Juventus. Però insomma, chi deve fare business, chi deve fare una squadra, chi deve pensare a una società, non è che può rimanere ancorato al ricordo di Mourinho. Cioè, e io credo che il minimo sindacale di fiducia ci sia. Se non ci dovesse essere, sarebbe veramente grave. Detto questo, non so quante risorse ci sono da spendere, perché l'Inter oggettivamente, con tutte le perdite di giocatori che ha e che avrà nel corso di questo calciomercato, ha bisogno di un investimento piuttosto massiccio. Estremizzando per gli stessi motivi potrebbe rimanere perfino Seedorf al Milan, eh? Sì. Estremizzando per gli stessi motivi, cioè per il fatto che è stato esautorato mille volte. Adesso poi dopo ne parliamo della presa di potere di Galliani, che Seedorf ovviamente non lo vuole, non l'ha mai voluto e non lo voleva nemmeno negli ultimi anni da giocatore. Però per la stessa ragione adesso c'è un tergiversare, ovviamente si aspetta delle elezioni europee, Berlusconi e altre faccende affaccendato, però la sensazione è che non sia più così certo l'allontanamento di Seedorf, e se ciò non avviene è meramente per motivi economici. Ha 2 anni di contratto, un contratto che chiama 2,5 se non ricordo male, e per il Milan in questo momento sono tanti soldi. 800 24 00 24, adesso ci fermiamo per la borsa un attimo e poi continuiamo a parlare. A proposito di Mourinho, c'è un'altra, senti questa, sì. Picconata di Eto'o, giorno delle picconate ai monumenti. Che è successo? Sai che Eto'o gli aveva dato degli imbecille, no? Sì. Perché per quella storia dell'età. Dell'età, cioè. Sì. Ho già detto, non è perché un burattino mi ha trattato da vecchio che voi dovete credere a quello che dice, contrariamente a come ciò che cambia, un burattino ha detto circa la mia età, doppio burattino, sono ancora in buona forma, 33 anni, mi sento davvero bene, ho dimostrato che potevo fare meglio dei giovani. giovani. Certo che si cambia. Burattino. Si cambia in un attimo nel calcio. Cioè, preso da Mourinho dalla Russia, sì. Fatto tornare in Champions, poi succede una cosa e quello diventa un burattino. È un imbecille. Io queste cose qui sono certamente divertenti, eccetera, però. La volubilità e il cambiamento nei giudizi nel mondo del calcio è veramente repentino. Tutti convocati. La sconfitta, come ho detto spesso e come ripeto, la vivo non bene, la vivo sempre tra virgolette come una morte apparente, dopo due giorni sto in coma, però faccio stare anche in coma chi mi è vicino. E quindi... Conte la sconfitta come una morte apparente, ha detto ieri in un paio di... No, è la filosofia di Conte, dai. Ma su Conte che resta la Juventus, anche lui senza quello prolungamento, sì, del contratto, quello sì, è un compromesso. Sembra normale anche quello? No, ma normale, non è che sia un delitto, non è un crimine, è un compromesso, questo sì, davvero un compromesso, perché evidentemente la Juve non aveva alternative e nemmeno Conte soprattutto le aveva, altrimenti avrebbe scelto altro. Io credo che per la mentalità di Conte, per la filosofia di Conte, cambi poco per la Juventus, cioè non credo che il fatto di essere a termine possa cambiare, cioè un uomo talmente determinato, talmente affamato di successo sempre e comunque, che non credo che possa essere considerato il prossimo un anno di transizione per la Juventus. Per lui o per... E poi la società è fortissima, anche se dobbiamo dire che la storia del calcio è piena di situazioni nelle quali, non tanto dal punto di vista dell'allenatore, ma dal punto di vista dei giocatori. L'idea di avere un allenatore in scadenza toglie qualcosa. Sì, ma non Conte, non Conte. No, ma sono anch'io abbastanza convinto che non è questa la cosa. Un'altra cosa è la stranezza del mondo del calcio, perché in nessun altro ambiente della vita umana, ma nemmeno quelli dello spettacolo, insomma, di gente... anche di quei big dello spettacolo che sì, super pagati, che hanno dei contratti di 3 anni, 4 anni, esiste il concetto che uno non possa lavorare un anno senza sapere che fa l'anno prossimo. Cioè questa cosa qui, che un allenatore che va in scadenza, ma quell'anno lì ha l'accordo, no? Per lavorare a una certa cifra, come ha detto Conte l'altro giorno, non è che aveva il fucile puntato addosso quando ha firmato fino al 2015, insomma è la cosa più normale del mondo. Sì, però ci sono dinamiche diverse nello sport, nel calcio, le dinamiche che sottolineavi tu, cioè però Conte è una, che... una roba assurda se ci pensi. Sì, no, ma che sia assurdo è indubbio, però... Tu firmi un contratto con una società per 3 anni, qualsiasi fa per fare, non lo so... l'impiegato contratto per 3 anni. Però l'impiegato è una cosa differente, cioè giocatore, certo, ti mette sotto pressione, ti chiede un'emotività, una fisicità, ti chiede delle cose per cui ci sono delle dinamiche diverse rispetto ad altri ambiti, quindi secondo me vale il ragionamento per cui, soprattutto su un gruppo stressato che non verrà rifondato come chiedeva Conte, bisogna vedere qual è la presa del suo lavoro su questo gruppo. Leonardo da Bari, hai visto? Buongiorno, volevo dire alcune cose perché sono tifoso del Bari, anche per informazioni, visto che siamo in periferia. Prima di tutto, il grande delitto di Mattarelli è aver tolto la passione ai tifosi baresi, che è tornata 10 partite fa, qualche partita fa, per il solo fatto che è andato via Mattarelli. Quindi lasciamo stare altre considerazioni e lasciano il tempo che torna, tipo la battuta di Sifredi, non è quello che interessa. Poi secondo, un grosso episodio è quando Bari era vicino alla Coppa UEFA e furono fatte delle scelte per non andare in Coppa UEFA. Non riesco a sentire molto. Quindi, pronto? Sì. Volevo dire un'altra cosa, ci sarebbe da dire, è molto lungo, soprattutto sì, da parte di Mattarese, la freddezza verso il pubblico. Il pubblico non spera in niente. Sì, però ha ragione. Però Leonardo, ci si dimentica molto in fretta il passato, quando Mattarese portava il Bari in Serie A, tutta Bari portava in palmo di mano sì, Mattarese via per motivi elettorali, lei lo sa questo, sì, voi non lo sapete. Sì, sì, sì, lo allora, sai che... via Conte per i netti, io vorrei ricordare questo, poi non c'era nessun programma subito dopo, venne Ventura. Sì, ma è stata una storia lunga, complicata, molto trascinata, molto sofferta, ed è chiaro quando è andato via Matarrese, da quando è andato via Matarrese l'aria in città è cambiata. Sì, grazie Leonardo, grazie, sennò il comizio barese diventa molto lungo. Vabbè, Luca da Cuneo. Buongiorno a tutti e un saluto a lei, dottor Genta, grazie di essere stato convocato. Volevo parlare per quanto riguarda la reazione di Balotelli, che per me è stato un signore. Se eventualmente ha detto una frase che solo a Firenze e a Roma si comportano così, sicuramente non voleva parlare di atti razzisti in generale, ma sui campi da calcio, che è una cosa diversa. Un'altra cosa è che l'informazione dovrebbe lasciar perdere tutte queste chiacchiere, perché danno solo più coraggio ai deficienti di dire queste cose o di frequentare gli stadi. Un'altra cosa che mi sento di dire è per la sicurezza degli stadi, che non si è mai presa in considerazione, è che chi ha il DASPO alla domenica, all'ora della partita, anche mezz'ora prima, si è in caserma a firmare, anche durante estate quando non ci sono le partite. Sì, quindi, ma comunque guardi, secondo me è tutto un po' da rivedere questa storia del DASPO, tutta la legislazione che c'è intorno al calcio, intorno alla sicurezza negli stadi, per usare un'espressione molto larga di uso comune, mi sembra sia tutto un po' da rivedere, no? No, ma sì, il DASPO, non mi sembra che i DASPO abbiano diminuito la violenza negli stadi. Certamente per tanti delinquenti che sono fuori, ce ne sono altri evidentemente che vengono reclutati, le norme sul DASPO si possono aggirare, la violenza, ripeto, è soprattutto fuori, dunque chi ha un DASPO può tranquillamente andare a picchiare qualcuno fuori dallo stadio. Ma come quella sciocchezza della tessera nominale, la tessera del tifoso, queste forme di schedatura delle persone. Vabbè, comunque, mi dicevano che c'è un immobile interessante, a parte parlato ora, così andiamo in argomento nazionale. Sì, sul Borussia. Sul Borussia, non so. È tão gostoso quando eu ha lepo lepo. Nel frattempo, che vuoi fare? Non so, vuoi fare un bagno in piscina? Vuoi fare il massaggio? Vuoi fare la sauna? C'è la sauna? La sauna è enorme. Fichissimo. E dove? Fatti la sauna, di là, vai di là. Poi quando arriva ti chiamo io, vai. È come se... Vai, muoviti, quando arriva poi ti avviso io, vai. Vabbè. Alfredo. Cosa? Quello della sauna è tuo cugino. Sì, perché? Esci. E mettete un climatizzatore qua. Madò. In quella casetta dove vengono ricreate le condizioni di umidità di Manaus, che cosa succede? Che cosa fate fisicamente? Perché c'è una certa curiosità, vi vediamo entrare e uscire, che cosa succede? No, l'ho detto, non è che... Non succede niente di strano. Tranquilli. No, ci sono. Facciamo degli allenamenti specifici per abituarci soprattutto a livello di fiato, di ossigeno, per poi quando andiamo a Manaus ci troviamo già pronti perché lì le temperature sono alte, soprattutto l'umidità, quindi. Chissà se nella sauna con i suoi compagni Immobile appunto ha parlato del Borussia. Alla stampa ha detto questo: il Borussia è una squadra importante, se non importantissima. L'anno scorso ha fatto la finale di Champions, quindi per me giocare la Champions l'anno prossimo sarebbe una cosa importante, anche sotto un punto di vista della mia crescita. Caldirola e Donati, l'hai sentito? Ti ha raccontato come la Bundesliga? Sì, li ho sentiti, ho visto anche le interviste che hanno fatto. Ci ho parlato con loro, si trovano molto bene, hanno detto che il campionato tedesco è migliorato tanto, è diventato uno dei campionati più importanti al mondo, quindi si trovano benissimo loro, anche se fanno un po' di difficoltà con la lingua, però come si dice, noi napoletani ci facciamo capire dappertutto. Morale, va al Borussia Dortmund, no? Non lo so, bisogna vedere... come si fa a dire oggi all'inizio, manca un mese all'inizio dei mondiali, poco meno di un mese all'inizio dei mondiali, bisogna vedere come va il mondiale, non credo che ci sarà un accordo prima, è metà della Juventus e metà del Torino, Cairo vuole i soldi, è pronto a cedere tutte e due, secondo me, insomma, mi sembra una grande incognita, di solito chi si muove prima però non arriva al risultato, secondo me non va al Borussia Dortmund, questa è la mia secondo cosa. Te Pierluigi? Ma dove ci va il Borussia Dortmund? Perché da quello che so la trattativa è molto ben avviata e mi sembra che né la Juve né il Torino abbiano poi la voglia, il Torino probabilmente la forza di poter resistere a un certo tipo di offerta, la Juve la voglia di pareggiarla, di ritenersi il giocatore, quindi penso che verrà utilizzato come merce di scambio. Detto questo, vediamo, sicuramente il mondiale può essere un acceleratore o un rallentatore delle attenzioni nei confronti di certi giocatori, un moltiplicatore dei prezzi, quindi bisognerà anche capire. Immobile arriva bene al mondiale, perché arriva come comunque l'attaccante più in forma degli ultimi tre mesi, quindi arriva col vento a favore, spesso poi il mondiale dà ragione a chi sta meglio nel momento, indipendentemente dall'esperienza poi del passato. Bisogna vedere se gioca, sì, a chi sta bene in quel momento lì, cioè non sempre chi è in forma nei tre mesi precedenti in realtà resta in forma poi per il mese del mondiale, attenzione, cioè si sono visti casi clamorosi di persone che erano considerate out o comunque fuori forma fino a maggio e poi disputare un ottimo mondiale, non è detto. La cosa è che chiaramente tu puoi fare anche la casetta per ricreare il clima di Manaus, ma tanto non serve quasi a nulla, ma non puoi creare una casetta che ti ricrea il clima, l'importanza di certe partite, quella è una cosa sulla quale con tutto il lavoro di Castellacci dal punto di vista psicologico quelle sensazioni lì non le puoi ricreare, e quindi questa è la differenza. Immobile ha giocato certamente delle partite importanti, è stato fondamentale, ha dimostrato di avere anche apparentemente degli attributi molto importanti in un momento fondamentale della stagione del Torino, con tutto il rispetto però per conquistare una qualificazione in Europa League, certo. Giocare a Manaus contro l'Inghilterra, una partita vista in tutto il mondo, è un'altra storia, però magari Immobile è pronto, manca anche la controprova, non è che abbia giocato queste partite e le abbia, poi vediamo, si tratta di capire, non l'ha mai giocato. Io sono curioso di capire dove sta Immobile nella gerarchia che ha in testa Prandelli, però questo non lo possiamo al momento sapere. Traffico, e com'è organizzato, se è organizzato l'addio al celibato? No, non l'ho organizzato, non c'ho avuto tempo. Come te l'hanno organizzato? Non l'ho organizzato, non ho fatto niente. Convocati. Sono 5 minuti di Cruciani Pardo, Alessandro, la provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno, a proposito di Immobile, io volevo parlare di un altro argomento, ma visto che si parlava di lui, fosse lui io andrei immediatamente, altrimenti secondo me magari ritorna alla Juve e fa la fine di Giovinco, che vede il campo una volta sì e 10 Borussia no. Dortmund tutta la vita. Direi. Non è che c'è la garanzia del posto a Dortmund. No, però vai in una grande squadra, una squadra che fa la Champions League, vai in una squadra che ha un progetto. Pure la Juventus fa la Champions League. Ma poi si va in una squadra ad un certo spessore, non è che si va proprio, insomma. No, io avevo chiamato l'allenatore. Perché cosa? Non si sente. Non si sente. Cambiamo cavallo, dai. Roberto da Bologna? Sì. Okay, vai. Pronto? Pronto, dica. Sì, buongiorno. No, io volevo parlare dei fallimenti, visto che prima parlavate del Bari. Io sì. Che sono di Bologna, sono tifoso del Bologna, però diciamo che sono un tifoso intelligente, diciamo, perché se le squadre non ce la fanno a stare in Serie A, falliscono. È meglio che fallisca una squadra di calcio che falliscano le famiglie, come sta succedendo. Perché sì. Mi spiego. Il calcio vive, cioè spende più di quello che guadagna, quindi è ora di finirla con questo sistema qua. Non dimentichiamo che la Lazio, che ha spalmato anni fa 23 miliardi, roba del genere, dei contributi non versati, questi continuano a spendersi e ad indebitarci, quindi Beh, vediamo se fallisce. A me Roberto lascia più perplesso il fatto che Guaraldi si presenti a parlare con Zanetti del futuro del Bologna accompagnato da un capo ultra spalciandolo per un suo collaboratore. Questo mi dà molto più fastidio. No, piuttosto volevo chiedere a Pierluigi e a Giuseppe, naturalmente, una battuta sulla situazione del Milan. Che ieri c'è stata questa dichiarazione di Sean Sogliano, l'avete sentita? Sì. Letta, vista. Sogliano, che era la prima scelta di Barbara Berlusconi come direttore sportivo del Milan. Ovviamente Sogliano è rimasto a Verona, al Milan è andato a fare il direttore sportivo tale Rocco Maiorino. Che un uomo di Galliani. Un uomo di Galliani, immagino. Sì, un uomo di Galliani. Una scelta di Galliani. Una scelta di Galliani, e Sogliano ha giustamente detto: ma scusa, io non vado a Milano a fare il cameriere di Adriano Galliani. No, ha detto: non me l'avrebbero chiesto di fare cameriere. Diverso, non è. Cioè. Sì, comunque, insomma, non vado a Milano, non me l'hanno nemmeno chiesto di andare a fare il cameriere a Milano. Vabbè, ma fa parte di questa vicenda che è ancora in corso e che prima o poi si dovrà chiarire, che è il vero limite del Milan in questo momento, che è quello di una chiarezza societaria con due teste, di cui una ovviamente che ha una storia del mondo del calcio, che ha relazioni anche con i media, anche e soprattutto con i media, che fa di nome Adriano Galliani, e un'altra persona che è la figlia del padrone, che però non è riuscita fino adesso a prendere il comando pieno per una serie di motivi, anche e soprattutto per inesperienza, perché il padre non si fida fino in fondo, diciamo la verità, perché questo è, e anche perché Galliani ha le sue carte da giocare. Sì. Per cui fino a quando questa vicenda qui non viene chiarita definitivamente, perché è chiaro che poi alla fine è inutile dare io mi occupo della parte marketing, quello si occupa della parte, diciamo, sportiva, non è così, è evidente che Barbara Berlusconi non ammette nel lungo periodo un'altra persona, che un altro pari grado. Finché questa vicenda non viene chiarita, credo che ma sarà un problema per il Milan. Tutto questo mi sfugge il ruolo di Berlusconi, del papà. Ma il ruolo di Berlusconi è quello di divide et impera. Divide et impera. Esatto, d'accordo su tutto. Aggiungerei che c'è la vicenda Sedorf, che è stato un limite, diciamo, al processo di crescita di Barbara e, insomma, diciamo, alla forza politica del fronte Barbara Silvio, nel senso che poi alla fine uno dei grandi nodi dei quali si è discusso quest'anno era l'allenatore, difeso da Galliani l'estate scorsa, convinse Berlusconi più o meno di questi tempi un anno fa a fare 0-0, quindi a dargli fiducia ancora anche senza il rinnovo del contratto per quanto riguarda questa stagione. Allegri sappiamo bene che fine ha fatto, però insomma in tre mesi diciamo che Sedorf non ha convinto, e adesso da parte dello stesso Berlusconi le difese di Sedorf non sono state più prese, il che vuol dire che da questo punto di vista Galliani gli potrà anche aver detto: hai visto che avevo ragione io, che non era lui l'uomo giusto, che si sarebbe fatto dei nemici all'interno dello spogliatoio, che la squadra non lo gestiva. Quindi questa vicenda qui mi sembra oggettivamente un punto a favore di Galliani. Poi è difficile delle volte nella vita capire il rapporto causa-conseguenza, cioè è difficile capire se questa decisione, se è stato Galliani che ha guadagnato peso politico e quindi ha indebolito la figura, oppure se Sedorf si è indebolito da solo, nel senso che ha fatto male, Berlusconi si è convinto che non fosse l'uomo giusto, contrariamente a quello che pensava, e quindi Galliani quel punto ha incassato politicamente il fatto di non aver avallato quella scelta. Beh, resta il fatto che anche la vicenda del direttore sportivo è emblematica di una certa presa di potere, riconquista del potere da parte di Galliani, perché sta strutturando la società, o almeno la tecnica della società, come pare a lui, cioè con un direttore sportivo che... Ma è una mancia, è l'ennesima mancia di una gara, di una corsa che ancora deve arrivare al traguardo, che su cui deve essere scritta la parola fine. Ce ne saranno altre dopo gli europei, ci arriviamo. Intanto grazie dopo Giuseppe Crociani. Dopo le elezioni europee, dopo il mondiale, forse. No, ma dopo il mondiale si comincia a giocare, caro Giuseppe. No, un po' prima. Grazie. Sentiamo. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao Pierluigi, a domani. Ciao Marco. Pagina sulle scommesse, poi dopo il GR ci ritroviamo. 800240024, numero verde. Quote e pronostici. Dopo il trisse di Buhanni nella decima tappa di ieri al Giro d'Italia, la Corsa Rosa riparte quest'oggi da Collecchio per arrivare a Savona dopo aver percorso ben 249 chilometri. Una fatica che può favorire i velocisti, ma che apre anche a fughe da lontano. E allora vediamo le quote SNAI per la tappa odierna. favorito è Boasson Hagen, quotato 8. Interessante anche la quota di Diego Ulissi, corridore italiano che è riuscito a vincere già in questa edizione del Giro d'Italia, quotato 12. Interessante pure la quota di Moreno Arredondo, quotato 20. La quota di Luca Paolini è a 25, mentre quella della maglia rosa Cadel Evans è a 33. Questa sera alle 20.30 in campo per gara 2 i playoff di Serie A di basket. Allora ad Assago si gioca tra Milano e Pistoia. L'1, la vittoria dei padroni di casa, è quotata 1.16. L'X è a 5.50. Il 2, con la vittoria di Pistoia sul campo di Milano, che sarebbe una vera e propria sorpresa, è quotata 19. In Sardegna, a Sassari, i padroni di casa sfidano Brindisi nella gara 2 dei playoff. L'1 quotato 1.65, l'X è quotato 3, il 2 invece, con la vittoria di Brindisi sul campo di Sassari, è quotata 6.50. Questa era l'ultima quota di oggi, noi ci risentiamo domani. Convocati. Se la società decide che devo essere io, sarò io e punto. E se non mi piace, me ne frega niente. È così come la vedo. Non è il momento di scappare e di fuggire. Sarebbe troppo facile. L'allenatore della Roma domani si alza alle 9 per andare ad allenare i ragazzi e per cercare di fare la partita contro il Napoli, pure che capiamo quello che pensano i tifosi. E se vi piace bene, se non vi piace tambè, e così sarà. E quando finisce la stagione mi fate questi pensieri che avete di ottimismo, a raudales, e così sarò, e prenderò la mia responsabilità, così lo farò, ok? Vale, domanda, da. Domanda. Lui ha mandato via poi dalla Roma. Però c'è un mio caro amico che mi dice sempre: nella vita tutto può succedere. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buongiorno, stupendo, questa compilation è veramente di grande livello, eh. Franco Piattanina, mega fesso. Cazzo, grandissimo, stupendo. Però stamattina è un altro umore. Sì, un po' più rilassato. È il signor Luis Enrique. Hoy para mí es un día muy ilusionante, es un día muy especial, es un día en el que creo que empezamos a construir un nuevo Barça, un Barça que pueda ilusionar, un nuevo Barça que recoja de nuevo todos los intereses y que consiga todos los resultados que buscamos. Hoy, que para mí es un día que, a pesar de que no hay sol, yo, según he salido de casa, he visto un sol redondo con una sonrisa enorme y he pensado: madre mía, qué maravilla, hoy voy a entrenar al Barça. Madre mía, qué maravilla. Bellissima questa immagine che ha usato, molto bella, che Barcellona era brutto tempo, lui dice: no, per me c'era il sole, gran sorriso, e madre mia che meraviglia. L'amore, cosa non può fare l'amore? E cosa non può fare anche, cioè, voglio dire, Luis Enrique è mandato via, come abbiamo sentito, dalla Roma, parte prima, questa stagione di studio, di ricostruzione, eccetera eccetera, e poi, cioè, fa subito il quadruplo salto mortale in sella al suo Barcellona. Si dice: ero un predestinato dalle due parti, però il salto è... Non era così scontato. Cosa vuol dire la scelta di Luis Enrique, Filippo? Beh, insomma, secondo me la scelta è azzeccata, e per un verso e forse meno per un altro. Perché azzeccata? Vuol dire che torna uno che conosce benissimo quella situazione. Lui era lì nel momento del trionfo con Van Gaal, però poi è stato lì anche quando poi le cose sono andate male, perché lui va via nel 2004 e se non mi sbaglio il Barcellona non vince niente tra il 99 2000 e il 2005, cioè sono, perché adesso sai, tutti hanno negli occhi 14 trionfi su 19 di Guardiola, però questa è una squadra che è rimasta per 5 anni a zero titoli, cioè, sì, sono mica pochi, E c'erano già Puyol, Xavi, Valdés, appunto c'era Luis Enrique, Iniesta era già lì, insomma c'era gente che adesso due di questi se ne sono andati, però insomma la gente che dopo ha vinto tutto. E quindi lui, siccome quest'anno è stato un anno super problematico anche a livello istituzionale, loro per me cercavano qualcuno che conoscesse bene questo famoso entorno, come lo definì Cruyff, no? questa melma che c'è attorno al Barça, che è poi molto politica, molto sociale, istituzionale, e che alla fine condiziona tantissimo, perché qui sono tutti colpi bassi, c'è un presidente e allora l'altro che vuole diventare presidente lì. Cioè, mentre qua a Madrid c'è la dittatura florentiniana e nessuno si avvicina e nessuno lo tocca, no, Barcellona è un casino, è il vero caos, con interessi personali, prima era Rosell contro la porta, adesso era la porta contro Rosell, ora la porta contro Bartomeu, insomma c'è interesse. Cruyff lì, che ogni volta che parla dà una stoccata a questa giunta direttiva perché non gli sta simpatica, insomma è un bel casino. Allora hanno scelto uno che comunque è anche uno duro, perché abbiamo sentito in quella, nella compilation che avete preparato, è uno che non ne manda a dire, e vediamo come va. Calcisticamente sa quello che vuole la gente, lui ha le sue idee. Per me cambierà molto il Barça, io te lo dico, perché è un allenatore da ricostruzione, è un allenatore da ricostruzione, Luis Enrique è un allenatore magari di rottura. Esatto, la ricostruzione si fa con la rottura, non lo so, può essere. Cioè, l'ha chiamato per radere al suolo quel che resta della squadra che ha vinto tutto, quel che resta della squadra perché di Guardiola. La prima risposta che dà su Xavi per me è durissima. Poi lui dice no, come dice, non parliamo di Xavi. Dopo lui si salva perché gli chiedono di Fabregas, gli chiedono di un altro giocatore e lui dice no, vabbè, poi ne parliamo di Mascherano. Dice no, ne parliamo poi dopo. Però la prima su Xavi per me era da grande freddo, perché è lì, questo è il primo nodo da sciogliere. Cioè, ce ne sono due enormi: uno, Messi, che dopo magari ne parliamo un attimo a parte, e Xavi, no? Cioè, vedete, il grande, il tiki-taka, il simbolo è Xavi. Sì. Abbiamo detto tante volte: quello prendeva, si girava su se stesso a 100 all'ora, se dopo si gira su se stesso a 50, la squadra ne risente. Sì. Il passaggio arriva un attimo dopo, non è filtrante come doveva essere, la difesa si è aggiustata, si è sistemata e via dicendo. Che facciamo con Xavi? Ma questo sarà problema già al mondiale, vediamo un po'. Questo è stato per me il miglior giocatore del mondo forse nel 2010, adesso ha 34-35 anni, è più lento e quindi così, quindi questo è il primo nodo. E poi bisogna vedere sto Messi, hai visto che qua non gli ha fatto nemmeno un'intervista, gli hanno fatto un ritocchino, no? Ritocchino a 20 milioni. Beh, ritocchino, non ha fatto nemmeno un'intervista, ritocchino. 20 all'anno. Esatto, metti all'anno netti, non gli fa nemmeno un'intervista col Barça TV, no? Come dicono qua, la televisione del Barça, poi arriva a Buenos Aires, paf, parla subito e dice, vabbè, se comunque c'è qualcuno che non mi vuole me ne vado. Che è stupendo. Dove vai? Prendendo quei soldi dove vai? Cioè, non, chi gli li dà? Poi su Mascherano però ha detto che potrebbe essere anche il capitano dell'anno prossimo, quindi sappiamo come qui da queste parti ci siano varie voci di interessamento. Mascherano però guadagna una quantità di soldi inammissibile per il campionato italiano. Sì, e poi io lo vedo, cioè Mascherano c'ha la famiglia che sta molto bene lì. Altra cosa importante, e Mascherano a me ricorda un po' Luis Enrique, cioè è uno simile, forse anche morfologicamente, ma anche come carattere, è un leader. Io ecco lì, gli ho visto, gli si sono illuminati gli occhietti a Luis Enrique, mentre su Xavi sa che è un problema, secondo me, da come l'ho vista, così, sensazioni parliamo, cioè, l'informazione che posso dare è che Mascherano vorrebbe rimanere a Barcellona per questioni familiari, quindi questa è l'informazione. La sensazione che ho io è che Luis Enrique, prima di mandarlo via, ci pensa due volte, perché comunque questo è un giocatore che è importante, uno che comunque dedita alla causa, devoto, un leader appunto, per cui vediamo, piuttosto vediamo Fabregas poi anche, Fabregas è in uscita, anche lui è giocatore che chiama tanti soldi eccetera eccetera. Vorrei dare un'occhiata a ciò che sta per succedere nell'immediato futuro e non nel futuro del Barcellona dell'anno prossimo. Carlo Ancelotti: Cristiano non ha problemi per giocare sabato, nutriamo ancora, anche se c'è tempo, qualche dubbio su Benzema e Pepe, che speriamo di recuperare alla fine. Sono partite che è normale che ci sia molta pressione, ma siccome che ce n'è talmente tanta prima della partita, il giorno della partita, questi giorni è meglio stare tranquilli e sereni, cerco di trasmettere tranquillità e serenità, perché è un bel evento da preparare, è una grande emozione per tutti, è un grande obiettivo arrivare alla finale, giocarla, e per cui la pressione ce la teniamo per l'ultimo giorno. Beh, lui è abituato a gestire comunque questi momenti, ne ha vissute 6 di queste vigilie, 3 da giocatore, 3 da allenatore. Come scrivi oggi sulla Gazzetta dello Sport, Filippo, Madrid però in questi giorni ha occhi per una sola squadra, che è quella più ricca, più forte, e anche quella che ha perso. Non so se può essere letto come un cattivo presagio, come facevano gli aruspici nei tempi antichi. Ha perso la Coppa dei Campioni dei canestri con un'espressione soffertissima e livida di rabbia di Florentino Perez. E accanto a lui il sindaco Anna Botteia, sì. E con la stessa faccia madridista, anche lei. Che non si fila minimamente il Atletico. E io ti dico, qui da neutrale, per me è scandaloso, però si sa, il Real Madrid è così, la Casa Blanca, c'è solo questa. Ieri, per me, la prima pagina di Marca, se sei un neutrale o se sei uno dell'Atletico, dà fastidio. Comunque, ma il peggio di come hanno perso quella finale lì a Milano è che se tu ti fai raccontare, poi te piace il basket, no? Se tu ti fai raccontare da chi era vicino al Real Madrid nella vigilia, nel pomeriggio, nel pranzo, l'avevano già vinta, Coppa già vinta. Ah, ma io l'ho seguita tutta l'Eurolega, ho pure visto la partita l'altra sera, io ho visto quella, cioè so qual è stato il cammino del Real, so quale fosse il livello di gioco del Real Madrid, so quali fossero i pronostici, cioè è successo qualcosa di impensabile. Ed è paradossalmente simile, però, attenzione, perché il Maccabi, che è una squadra storicamente ricca, in questa stagione ha speso davvero poco. Il budget del decimo, dodicesimo d'Europa per il Maccabi Tel Aviv, e quindi questo è un altro presagio. Sì, l'ho scritto anche ieri Dan Peter, se non è piaciuto. L'Atletico è il Maccabi, il Maccabi è l'Atletico del calcio. Sì, cioè, è così. No, però tu l'hai seguito tecnicamente e la squadra ha sempre volato abbastanza basso, perché l'altro è uno bravo, i giocatori sono, sai, così. Venerdì, grande festa, capito? Arriva il sindaco, arriva il presidente della regione, e lo champagne l'hanno aperto parecchio prima del fischio d'inizio. Non ci siamo. E lì, per quello che poi dopo ti viene quella faccia, perché se tu vai a fare una partita e dici, appunto, come dice Carlo, dice, comunque è una finale, vediamo cosa succede, ti puoi preparare, Allora lì vai un pochino, no, col voli basso. Sì. Lì questi volevano un'altezza siderale e poi hanno dato una musata che ovviamente fa più male, insomma. Questo è il Madrid. Adesso però guarda, quasi si sta rovesciando. Adesso il madridista vero ha un timore fottuto di questa finale. Ah beh, sicuro, non ho dubbi, guarda, non ho dubbi. Più passano le ore, più aumenta la paura blanca. Una FIFA blanca in questo caso. La FIFA blanca, veramente. E poi ti dico, sono stato lunedì alla festa, mi hanno fatto salire sull'autobus che stava dietro quello dei giocatori dell'Atletico, cioè domenica, non lunedì, è stato impressionante. A me è ricordato, io ero anche, perché vivevo lì, la festa del Chelsea 2005, quando con Mourinho vincono lo scudetto dopo 50 anni, quello era il quartiere e si vedeva proprio la passione, ma questa è stata una cosa, cioè 200.000 persone, qua è più grande, non è solo un quartiere, perché qua è mezza città. Io ti dico, c'è un legame tra la squadra e soprattutto Simeone e la gente che è qualcosa di enorme. Io sinceramente a livello sportivo non l'avevo mai visto. Ma si crea una situazione come questa. Non era un'ubriacatura così, diceva, come dico qua, la borracciera, no? Non era proprio. No, questo era un festeggiamento serio, pieno di passione e di emozione. Sì, era una roba sentita, non era una roba formale. Un'ultima cosa, Filippo, come scrivi anche pubblica in intervista sulla Gazzetta di Cristiano Ronaldo, gli hai parlato, giocherò, non sono al 100%, ma ce la faccio, ma ci mancherebbe altro. Sento invece che Diego Costa vola a Belgrado dalla maga massaggiatrice chiropratica, santona, Mariana Kovacevic, che utilizza invece dell'olio canforato, delle cremine, la placenta di cavallo per guarire i muscoli. Ma cosa non si fa per giocare una finale? E io ti dico solo questo, caro Carlo, se lo faceva un ciclista. E qui mi fermo. Bravo, fermati lì. Se lo faceva il ciclista, arrivederci. Cioè, perché questa è la situazione, purtroppo. Lì c'è dalla maga. Sono andati fior di giocatori, Van Persie, Lampard, Company. Io mi ricordo quando era alla Coppa d'Africa, ci andò, cioè, venne lei in Gabon. A curare a Samoa Gian, il calciatore del Ghana, che doveva star fermo 3 mesi e dopo 4 ore era in campo. voglio dire, con alcuni non ha funzionato, con altri ha funzionato. Benitez è un grande fan di Mariana, è stato lui a portarla in Inghilterra. Non è che ha placenta di cavallo, cioè, a me fa un po' senso, però non rientra nell'elenco dei prodotti dopanti. Infatti lei lo specifica nel suo sito, è fichissimo, perché lei lo dice: no, ma qui dice tutti i miei giocatori sono venuti da me e poi hanno passato il controllo antidoping senza problemi. Scusazio non petita, quindi ovviamente. Sì. Però ma magari è vero, prendi la placenta di cavallo e ti metti a posto il muscoletto, tutto a posto. Questo è quanto. Non possiamo dire niente altro. Quindi non possiamo neanche dire se gioca o no sto Diego Costa. Ma per me non doveva giocare. Adesso se Mariana fa il miracolo gioca. Se Mariana non fa il miracolo non gioca. Se Mariana fa il miracolo. Se Mariana, mamma mia, se Mariana fa il miracolo, la portano sul pullman. Lei è il ciolo in processione. Entrando su un terreno blasfemo, caro Ricci. Lui non può giocare, è fuori da questa fuori. Rischia anche il mondiale. Quindi, se sabato poi lo vediamo in campo, Santa Mariana, vergine di Međugorje. Ci vediamo qui. Siamo meglio. In odore di scomunica. Siamo in odore di scomunica. Ci vediamo qui. Vediamo se... Mi vedo ancora in un paese cattolico. Forse anche io, però, un po'. Sì, vediamo se gioca Diego Costa. Mi auguro di sì. Per la bellezza di questa partita, in generale, per lo spettacolo. Ma sì, ma poi gioca. Se non è Mariana, è la punturina, dai. Perché per giocare una finale di questo tipo, in cosa del muscolo rotto, sì, sono problemi veri. Sì. Allora, ora pro nobis Mariana, mandaci Diego Costa, finale, così ci divertiamo un po' di più. Grazie Filippo. Ciao. 800240024. Beh, oggi Filippo Maria Ricci nettamente migliore in campo. Vediamo e sentiamo soprattutto quale ascoltatore si porta a casa una maglietta griffata oggi di tutti i convocati. Chi è il migliore in campo? Piantarino non ha ancora deciso, vi do questa dritta. Federico, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno, se c'è ancora Giuseppe. Giuseppe è andato di là che deve preparare la zanzara. E dopo dico, è spettacolare sentire parlare di Messi milioni al telefono, che siamo abituati a sentirla per radio. Mi sembrava di essere un procuratore, un giornalista sportivo, ascoltare tutte queste cose per telefono reali, una cosa spettacolare. Sì. E niente, chiamavo per Mazzarri. E dicevo che secondo me ha fatto un buon campionato, cioè ha centrato l'Europa, quello che ci si aspettava, insomma, e ha giocato bene le sue carte riguardo il contratto. Sì. Perché il DS Ausilio, se non sbaglio, gli ha proposto un rinnovo. E lui secondo me vuole aspettare, vedere l'anno prossimo se c'entra magari la Champions. Può richiedere magari un qualcosa sul contratto più economico, magari qualche garanzia più sul mercato. Sì, ho capito Federico, però normalmente un allenatore, se gli propongono un prolungamento dei contratti in una società come l'Inter, che ha comunque un grande club, ha programmi ambiziosi, eccetera, eccetera, se ti propongono il prolungamento del contratto, è difficile dire di no, cioè bisogna essere contorti a dire di no. Cioè, prolungare il contratto non vuol semplicemente avere un altro anno di lavoro garantito, perché non, nello sport, ne parlavamo prima, non è come normale posto di lavoro. Vuol dire puntiamo su di te, ma ci puntiamo sul serio per il futuro. Quindi è non è solo questione di soldi, è questione di un messaggio, di un modo di lavorare, di una certa serenità anche per chi fa questo lavoro. È questione di avere maggiore presa sui giocatori, maggiore potere sui giocatori, potere in senso sportivo, maggiori margini di manovra, insomma vuol dire tante cose. quando un allenatore è in scadenza, i giocatori sanno perfettamente, un allenatore è in scadenza, beh, tutte queste componenti un po' vengono meno, quindi sarebbe davvero molto strano se l'Inter avesse proposto a Mazzarri il prolungamento del contratto e avesse risposto grazie non fumo, aspetto ancora un po'. Carlo, buongiorno. Carlo, ciao, buongiorno. Dimmi. Io avevo chiamato, volevo sapere un po' qualche novità sul mercato del Napoli. Però prima poi ascoltando Simone, sì, che parlava della maga, sì, della maga, Filippo Maria Ricci, qualche nuova attività, diciamo, che ogni squadra, insomma, io ci credo alla magia. Ah, io, se si parla di pallone, io ci credo sempre, ovviamente, magia bianca, ovviamente. Magia bianca, facciamo l'incantesimo, facciamo. Diciamo quello che. Definiamola come vogliamo, però nel calcio le stelle contano, no, Carlo? Sì, infatti io. Ma è venuta qualche idea su che cosa? Stavi dicendo, mi è venuta un'altra idea. Che vuoi fare? Vuoi fare i massaggi anche tu? C'è gente che non trova lavoro e può inventarci qualcosa, diciamo, si specializza un po' dei corsi di magia. Sì, i corsi di magia, vabbè, li mandiamo a Belgrado dalla signora Mariana insieme a Diego Costa e si imparerà l'arte di questo massaggio. Ma tra l'altro, al di là di tutto, dei giochi di parole che possiamo fare, come sottolineava Filippo Maria Ricci, questa ha davvero rimesso in piedi diversi giocatori. Abbiamo sentito prima uno sparuto elenco, ma sono di più giocatori importantissimi con questo tipo di pratica. Non so se sia l'ultima carta possibile per Diego Costa, però è vero, cioè, questo risulta agli altri. Io la giocherei. Cosa gioca? Sì, per dire, c'è da provare anche con questo massaggio di questa donna qui, io glielo farei fare. Ma come? Ma ci mancherebbe altro, per giocare una finale di Champions League, la maga Circe e altro ancora, mancherebbe altro. Carlo, grazie, mercato del Napoli, un'altra volta quando siamo più informati, perché insomma non mi sembra ci siano grandissime novità, i nomi che rimbalzano sono sempre quelli, un giocatore è già arrivato, si continua a parlare di Mascherano, però la sensazione è che in Italia Mascherano non lo vedremo, anche perché, ripeto, vuole restare a Barcellona, va bene, ma soprattutto guadagna un sacco di soldi. Tutti convocati. Della rumba, signori. Allora, innanzitutto rispondo a un messaggio di Francesco 349-238-6666 che scrive: come al solito in quello che dici c'è sempre una dietrologia che riguarda la Juve. Nelle tue parole sull'Inter e Mazzarri io leggo che Conte l'anno prossimo perderà il controllo dello spogliatoio, che perché va in scadenza. Forse mi sbaglio? Sì, ti sbagli, Francesco, perché non si tratta di leggere le mie parole e non si tratta di fare della dietrologia. Ne ho parlato anche prima, ne abbiamo parlato anche prima con Pierluigi Pardo e con Cruciani, di questo rischio, di questa insidia per Conte, ma parliamo apertamente, cioè mica bisogno di fare dei riferimenti casuali. Il rischio nello sport, non solo nel calcio, per un allenatore in scadenza di contratto è proprio quello di non possedere più le chiavi per far presa sul gruppo, soprattutto se, l'ho detto prima o poi della Juventus, lo ripeto, se quel gruppo non verrà rifondato come chiedeva Conte, se quel gruppo è vagamente stanco anche emotivamente, perché Conte è un allenatore meraviglioso ma che ti chiede l'anima, così come Mourinho, così come altri, è un tipo di allenatore così, e dunque secondo me quell'insidia e quel rischio esiste, quindi non si tratta di fare della dietrologia. Dunque rumba, sentiamo qualche voce prima di quella di Massimo da Milano. C'è Guidolin che, come dicevo ieri, ha lasciato la panchina per una poltrona di supervisore tecnico dell'Udinese, un ruolo che mi sembra di vedere abbastanza vago, abbastanza fumoso. Aveva la giacca e ha avuto queste parole: è un bel giorno perché come ho sempre detto e come ho sempre pensato e come ho sempre desiderato, rimango qui, rimango in famiglia, rimango in Friuli, rimango in questa terra. Mi fa piacere rimanere qui, mi fa piacere poter dare il mio contributo, mi fa piacere pensare a una nuova sfida, a un ruolo diverso, a un ruolo nuovo. Sono molto curioso, sono molto stimolato, ho tutti i motivi per poter pensare di potercela fare, di poter essere utile, di poter essere di supporto alla mia società. Sì, certo che insomma, perdere come allenatore Francesco Guidolina mi dispiace, perché è un bravissimo, grandissimo allenatore, e quindi il fatto che smetta di allenare, perché è la logica delle cose, a me dispiace e anche mi sorprende pure, devo dire la verità, magari è molto stanco, non lo so. Chi invece resta dopo il tira e molla con la Juventus è Sinisa Mihajlovic, che ovviamente era stato messo in attesa, come quelle chiamate, dalla signora. Poi la signora ha detto: no, guarda Sinisa, facciamo un'altra volta. E allora lui è tornato da Garrone e ha detto: va bene, prendo quello che mi dai, firmo, resto qui. La società ha fatto tutto quello che doveva fare, quello che gli ho chiesto. Io ho chiesto qualche giorno di riflessione per capire bene come stanno le cose, e dopo qualche giorno abbiamo deciso, ma comunque non è stato mai il problema mio di prolungare il contratto o no. Queste le parole di Sinisa. E infine, non è un allenatore ma un giocatore, non so se già un ex giocatore, credo che abbia voglia di continuare a giocare, Massimo Ambrosini. Anche qui mi sorprende abbastanza questa fine così repentina della sua avventura, molto breve, a Firenze. Ambrosini: non è giusto dire, per come la vedo io, continua a giocare a prescindere e poi vai a cercare qualunque tipo di cosa. Continua a giocare, se l'opportunità che trovi ti può soddisfare, se no non sto bene fisicamente, non avrei, anche se sto bene fisicamente, problemi a fermarmi, perché comunque ci deve essere un motivo per continuare. Anzi, Zanetti l'ha detto, e smettere eventualmente quando uno sta bene penso sia anche una cosa non da scartare, non è che devi arrivare finché non ce la fai più. Vediamo se va avanti, secondo me sì. Ascoltatori invece. Guido da Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. A lei. Avrei solo una curiosità, no? Mi riferisco alla maga di Belgrado, la maga Circe, sì. No? Sì. Avrei un gruppo di persone da mandarli, ma solo se fa massaggi anche al cervello, però. Anche al cervello possiamo informarci. Se non fa massaggi così, ecco, potete informarvi per cortesia, perché ci sarebbe un bel pullman da mandargli per incrementare i suoi guadagni. A chi si riferisce? No, mi riferisco in generale, no, in generale non solo nel calcio ma anche nella società civile, dei massaggi al cervello ne avremo tanto bisogno. Sì, magari anche di qualche miracolo, cosa che la chiropratica, diciamo così, che definiamola così, perché di questo si tratta, al di fuori dello scherzo, miracoli non, no. Miracoli nel senso di riuscire magari a rimettere in piedi e in sesto giocatori apparentemente non in condizione di giocare, insomma, questo è quanto, ecco, non risultano altre stregonerie di altra natura, Guido, quindi rimandiamo alla prossima puntata, facciamo così, o alla prossima maga. Massimo Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. A Immobile, sentivo dire delle valutazioni vostre in merito alla possibilità che possa o non possa determinare il nazionale. La mia domanda è un po' questa: qual è il discrimine fra la valutazione di un giocatore che è pronto per un grande evento piuttosto che no? Traduco in altra maniera: Diego Costa, Arta Turan, Evra, che tra l'altro ha giocato nel Siracusa in Italia e mi sembra che abbia provato grandissimi stimatori. Lo stesso Simeone ha allenato il Catania non 30 anni fa, l'ha allenato 4-5 anni fa. Sì. Io dico che il coraggio di un allenatore o di una società di schierare un giocatore, in questo caso il coraggio della federazione, il coraggio di Prandelli, di dire do fiducia a Ciro Immobile. Uh-huh. È chiaro che se poi Ciro Immobile diventa il crack del mondiale, siamo qui tutti contenti, io per primo che sono anche granato, anche se sì, la contenta di prima che può andare alla Juve, l'ho sentita ai parenti. Però voglio dire, credo che solo la fiducia possa determinare la differenza tra un giocatore di alta qualità e un giocatore no, che sì, fa... Massimo, questo certamente. Allora, questo certamente, guardando ciò che è successo in campionato, Immobile titolare fisso, non si discute. Poi ci sono altri dettagli, altre logiche, altre dinamiche. Come ho detto prima, alla magia, o meglio alle stelle, al destino, al fato, a tutte queste belle cose, nel calcio io ci credo perché l'ho visto troppe volte, lo vedo troppo spesso, questi segnali, quindi è inutile stare a ricordare storie che conosciamo tutti, da Paolo Rossi a Schillaci a questa stagione magica che prosegue al mondiale, eccetera. Se poi vogliamo ragionare in un'altra maniera, Immobile non ha grandissima esperienza internazionale. Il mondiale, anche qui, è un torneo strano, è qualcosa che brucia in fretta, è qualcosa che non ti consente di sbagliare, è qualcosa di molto aleatorio, però qualità come l'esperienza internazionale, come l'abitudine a giocare certe partite, a sentire la pressione di certe partite, a giocare davanti a tutto il mondo, insomma, sono cose di cui bisogna tenere conto. L'unica perplessità che mi porto dietro insieme ad Immobile in Brasile è questa, cioè non sono perplessità tecniche e tattiche, di qualità del giocatore, relativa al momento, perché questo è indiscutibile. Però Immobile quante partite a questo livello ha giocato nella sua carriera? Zero. Questo mi preoccupa un pochino. Dunque ci fermiamo per il traffico, subito dopo Giro d'Italia, Piero Augusto Stagi. Oggi c'è la notizia, che almeno parziale, che si è ritirato una ex maglia rosa dal Giro. Dopo il traffico vi raccontiamo tutto. Tutti convocati. Ancora una volta il francese che fa centrare il Tris ed è costretto ad un nuovo piazzamento. Giacomo Nizzolo, che questa volta aveva cercato di anticipare nuovamente i tempi, però Silvio, obiettivamente è stato saltato in maniera netta, anche in questo caso da Nasser Bouhanni. Così ieri al Giro d'Italia Nasser Bouhanni vince in volata, Evans maglia rosa rischia in quella stessa volata. È sempre un giro pericoloso, è sempre un vivere in modo pericoloso per il Giro d'Italia. Intanto, prima di Piero Augusto Stagi, io rispondo a Giacomo, che scrive: mi pare un po' di moto, domenica non ho visto le gare cause Ikea. Giacomo, ne parliamo certamente, io lo faccio sempre un grande piacere, ma intanto tutta la mia solidarietà, ma vera, tutta la mia solidarietà a te. Certe volte le donne ci fanno questo e altro, ci sono le gare, ci portano all'Ikea. Ribellati! Stagi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Abbiamo sentito anche prima le informazioni sul traffico. Attenzione, ragazzi, strade chiuse, passa il Giro d'Italia da quelle parti in Liguria. Ma che succede oggi? Oggi succede che intanto non sono mancate anche oggi le cadute. Ancora, un'altra oggi volta. Oggi hanno battuto anche il record, perché ci sono 14 corridori al comando. Dentro c'è anche Manuel Buongiorno e anche un compagno di squadra, tanto fortissimo. La maglia rosa cade Evans, Steve Morabito, bene, sono riusciti a cadere per terra anche 14 in fuga, non è male. Ma rischiano tanto o non sono più capaci di guidare le biciclette, Piero Augusto? Guarda, no, oggi di rischio lì era un rettilineo, disattenzione. Un attimo di concentrazione e ti arroti con quello davanti. Arrotarsi vuol dire con la ruota anteriore toccare quella posteriore del corridore che è davanti, e quindi si fanno dei bei voli. È un peccato perché fanno un po' la figura dei polli, e in più, tra l'altro, credo che Cade Evans non sia contento, sapere che l'uomo forse più forte dei suoi gregari, Steve Morabito, vada per le terre, si acciacchi alla vigilia delle montagne. Certo. Il giro si fa veramente, si fa veramente, da domani inizia il Giro d'Italia, quello vero. Anche se stanno andando a tutta, prima tre ore, prima ora 49 e 800 di media, terza ora 43 di media. Stanno veramente facendo dei numeri. Ma spesso capita, no, prima di tappe importanti, vedere delle tappe apparentemente di trasferimento, apparentemente non da stravolgimento della classifica, molto tirate, quasi scaldino i motori, no? Sì. Beh, comunque poi è la logica, no? Delle squadre che non hanno la maglia rosa e che logicamente nella strategia è quello di fiaccare le forze, le velleità di Evans e renderli duro anche ciò che potrebbe apparire semplice. E quindi oggi è una tappa di quella, perché 245 chilometri, ci sarà ancora da affrontare proprio nel finale, a circa 25 chilometri dal traguardo, il Naso di Gatto, che è uno strappo piuttosto insidioso e soprattutto insidiosa la discesa. E quindi cercheranno appunto di rendere complicato anche ciò che è semplice. Tra i caduti, non in testa, però purtroppo c'è stata anche un'altra caduta dopo circa due ore di corsa, in gruppo questa volta, e tra i malcapitati anche il nostro Diego Ulissi, che ha preso una bella schienata e non è una buona notizia neanche questa. Quindi, ma si è ritirato, no? Giorno... No, si è rialzato, perché però logicamente adesso sta correndo e bisognerà vedere un attimo quali saranno le conseguenze della caduta, perché poi i dolori vengono fuori, le botte vengono fuori la notte e al mattino sai tutto. Ascolta, un'ultima cosa, Piero Augusto, sto seguendo con particolare attenzione, ieri ho letto anche un'intervista, stiamo provando a scoprire come personaggio questo Aru, che è un ragazzo di talento. Fabio Aru. No? Sì. Stiamo imparando a conoscerlo. Sulle salite proveremo a vedere quanto vale. Ti ricordi cosa avevamo detto all'inizio del giro? Speriamo che qualcuno di questi ragazzini, perché qualcuno che ha talento ce l'ha, ce l'abbiamo. Abbiamo un disperato bisogno. Avevo fatto proprio il nome di Aru. Sì, questo me lo ricordo bene, se lo ricordano gli ascoltatori. Qualche ragazzo di talento ce l'abbiamo. Speriamo anche che abbiano la faccia di tolla sufficiente per eventualmente per trasgredire, per magari per insomma fare lo sberleffo ai loro capitani, magari per provare la grande impresa. Beh, guarda, in realtà quel problema lì non c'è più, perché purtroppo, ahimè, il capitano era Michele Scarponi, sì, è caduto, Scarponi, è, sappiamo. È malconcio, e quindi Aro a tutti gli effetti ora ha i gradi di capitano, è quello meglio messo della Astana, e quindi avrà tutta la squadra a sua disposizione, quel che resta della squadra, perché sono caduti più e più volte un po' tutti, sono da Valerio Agnoli, Gasparotto, Scarponi, sono tutti conciati da sbatter via. Aru, grazie al cielo, non è quasi mai caduto, ha messo un paio di volte piede a terra, come si può dire, riuscito a evitare le cadute, si è fermato in tempo, adesso però ha il terreno che più gli confà, e quindi speriamo che tenga le ruote dei migliori, ha l'età e l'esuberanza giusta, soprattutto al talento, credetemi. È un ragazzo che al secondo Giro d'Italia, l'anno scorso al suo esordio, l'ha concluso. A cronometro come va? Non è un grande specialista. Quindi domani sarà qualcosa di determinante per capire se ha ambizioni. Però Carlo, ti devo dire anche che forse domani è la prima volta che disputerà un cronometro da uomo di classifica, quindi cambia tutto, quindi sarà appunto anche per lui la prima verifica, e appunto noi vedremo per la prima volta in assoluto questo ragazzo di 23 anni che farà una crono per arrivare da uomo di classifica, e appunto per questo dico sarà una grande verifica anche delle sue ambizioni, della sua capacità di correre su un terreno per lui non favorevole sotto pressione. Esatto. Ora di arrivo prevista oggi più o meno? Alle 17.30, perché la tappa è lunga, anche se 17.30. Stanno andando veloce, però intorno diciamo dalle 17.15 alle 17.30 qua a Savona. Benissimo, allora dopo il GR delle 18 ci racconti tutto nel consueto punto su Giro d'Italia. Grazie a Piero Augusto Stagi, ciao, a dopo. Grazie a te Carlo. A dopo. Simone da Bologna. Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Dimmi. Volevo parlare di un argomento che forse è un po' fuori tema, nel senso del... Non c'è niente di fuori tema. Bene, allora, del record sì. fatto dalla Juventus e se ne è fatto un gran parlare praticamente. Secondo me non fa altro che sottolineare il basso livello del campionato italiano, nel senso che quando si hanno una squadra che da 20 punti e passa alla seconda, che a sua volta... 17, per la precisione. 17, mi scusi. E, insomma, praticamente vince con tutte, la seconda anche, non fa altro che sottolineare appunto il basso livello, la scarsa competitività del nostro campionato. E infatti lo si vede poi quando le nostre squadre giocano in Europa, che escono dalle competizioni europee da squadra non di primissimo piano. Quindi non vedo tutto questo avanti, è giusto sottolinearlo per i tifosi della Juventus sì. e quant'altro, ma magari ecco, non è una cosa di cui vantarsi. Sì. No, Simone, questo è un ragionamento che abbiamo già fatto ed è molto complesso. Mi riferisco per ragioni di comodità al campionato tedesco che è finito a marzo, cioè ci sono delle squadre in questo momento che sono quelle che hanno ambizioni di Europa, che sono sovradimensionate rispetto ai campionati cui partecipano. Questo accade abbastanza di frequente. Se poi vogliamo dire che il nostro campionato non, in questo periodo, in questo momento storico, non ha un livello eccellente, vabbè, questo non è che da sottoscrivere. Migliore in campo di oggi chi è? Carlo, buongiorno. Carlo, ciao, buongiorno. Dimmi. Io avevo chiamato, volevo sapere un po' qualche novità sul mercato del Napoli. Però prima poi, ascoltando Simone, sì. che parlava della maga, sì. della maga, Filippo ma Maria Ricci, per qualche nuova attività, diciamo, che ogni squadra, insomma, io ci credo alla magia. Ma è venuta qualche idea su che cosa? Stavi dicendo, mi è venuta un'altra idea, che vuoi fare? Vuoi fare massaggio anche tu? C'è gente che non trova lavoro e può inventarci qualcosa, diciamo, si specializza un po' dei corsi di magia. Maglietta per lui, assolutamente. Franco Piantanini, autore di questo programma, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Torniamo domani dopo il GR delle 2. Ciao.